delle sublimazioni formano un uomo dentro di me, oltre ogni limite, io sono te. Giochi di gioia e dolori che sono i nuovi. Vivere semplicemente come le favole. Questo è il messaggio divino che ognuno è sé. Sveglio piano i sensi e le volontà. Tutti quei dubbi che avevo ora non sono più. Seguo quel grande cammino che gioia mi dà dentro di me, oltre ogni limite. Io sono te. Dentro di te, dietro le nuvole, io trovo me. Dentro di te, oltre ogni limite, dentro di me, oltre ogni limite, io trovo me, te, me, te.